Ciao, benvenuto. Mettiti in un posto tranquillo, sediti comodo. Se hai gli auricolari li puoi usare. E inizia pure a rilassarti. Ascolta la mia voce. Ascolta la musica in sottofondo. Senti come tutto il tuo corpo è appoggiato. E tu puoi iniziare a rilassarti, a dedicarti completamente al lavoro mentale che faremo insieme. Inspira ed espira. Mentre respiri, nota la tua pancia come si muove. Chiudi gli occhi e rivolgi l'attenzione al tuo interno. Nota come ad ogni respiro i tuoi muscoli si rilassano. I muscoli della testa si rilassano, i muscoli del collo si rilassano, i muscoli della schiena. Continua a respirare. Rilassati sempre di più e concentrati sul cuore. Metti le mani sul cuore, così. E mentre continui a respirare con gli occhi chiusi, lo senti battere, lo senti vivere. Respira dal naso ed espira dalla bocca, dal cuore. Fai uscire tutta la tensione. Così. Il cuore è vita, il cuore è importante, tu sei importante. Aumenta l'empatia col tuo cuore, aumentando la percezione del suo battito. Sentilo vibrare e donare amore, forza e benessere a tutto il tuo corpo, ad ogni tuo organo, ad ogni tua cellula. Ascolta il tuo cuore, perché tu sai che lui ti aiuta a prendere le decisioni migliori. E mentre continui a respirare, prova gratitudine per questo organo meraviglioso che batte per te 100.000 volte ogni 24 ore. Batte per te di giorno e di notte, mentre lavori, mentre dormi, mentre corri, mentre riposi. E pensa che tu non hai fatto niente per meritarlo. Qualcuno o qualcosa ti ha amato abbastanza da farti questo dono meraviglioso, che è il dono della vita. E finché lui batte, tu continui a vivere. Lui ti ama, ti nutre, ti supporta. Continua a respirare attraverso il cuore. Con le mani sul petto. E renditi conto come dal tuo cuore si espandono in tutto il tuo corpo l'amore, la comprensione, il coraggio, la rinascita, la libertà, l'entusiasmo, la gratitudine per questo grande dono. Sì, sii grato per questo grande dono che ti è stato fatto. Vedi il mondo con questo potere, senti il mondo con questa forza, influenza il mondo con questo grande amore e con questa gratitudine. Renditi conto di come ti fanno stare tutte queste emozioni, di come si diffondono in tutto il corpo, di come cambia la tua vibrazione. Nota come questa energia ti avvolge tutto, dalla testa ai piedi. Coinvolge ogni tua cellula. E adesso, immaginando di rivolgere i tuoi occhi al cielo, pronuncia a voce alta: grazie. Grazie per il dono della vita. Grazie per tutte le opportunità che mi sono state date. Grazie anche per i momenti difficili, perché è anche grazie a questi momenti che sono cresciuto e che oggi sono chi sono. E adesso, con questa grande energia, immagina di prendere con la tua mano destra, dietro di te, come se fosse in uno scaffale, immagina di prendere un momento, nei mesi scorsi, in cui sei stato orgoglioso. Guardalo lì. Cosa stavi facendo? Prendilo con la mano destra e portalo nel tuo cuore. E adesso, voltati. Immagina di prendere nella stessa scaffalatura un momento in cui hai provato amore. Con la mano destra prendilo e portalo nel tuo cuore. E adesso voltati ancora e cerca un momento nei mesi scorsi in cui hai provato passione, chissà, passione per qualcuno, passione per quello che stavo facendo. Prendilo con la mano destra e portalo nel tuo cuore. Sorridi ai momenti speciali della tua vita, perché tu sei speciale. E adesso immagina un momento, vai a prendere un momento in cui hai riso a crepapelle, in cui ridevi così forte che ti facevano male tutti i muscoli della pancia. Guardati lì, prendilo e portalo nel tuo cuore. E adesso prendi un momento dei mesi scorsi, un momento sacro, e portalo nel tuo cuore. Così, e senti come ti fa stare. Pensa a tutti i bei momenti che hai provato nei mesi scorsi. E sii grato. E adesso, immagina davanti a te i mesi che verranno. E con la mano destra, vai a prendere in un momento in cui stai, nel tuo futuro, nei prossimi mesi, in cui stai facendo qualcosa di cui sei orgogliosa. Prendilo con la tua mano e portalo nel cuore. E adesso allunga la mano destra e prendi un momento, nei prossimi mesi, in cui provi amore incondizionato. Guardati lì. Prendilo e portalo nel cuore. E adesso prendi un momento in cui provi decisione nei prossimi mesi. Prendilo e portalo nel cuore. Adesso trova un momento in cui provi determinazione nei prossimi mesi e portalo nel cuore. Perché tutta la bellezza è già dentro di te. Non sei qui per soffrire, sei qui per vivere una vita piena e felice, per essere una scintilla per te e per le persone che ti circondano. E continua a respirare col tuo cuore, con le mani sul cuore e col sorriso sulle labbra. E rimanendo nel cuore e non nella testa, senti quali parole puoi dire a te stesso per i prossimi giorni e per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Decidi chi vuoi essere, chi ti impegni a essere ogni giorno. Nota come l'amore e la gratitudine che hai nel cuore cambiano in maniera profonda le convinzioni di ciò che puoi fare. Ora ti senti allineato e più forte. Cosa pensi di poter ottenere adesso? Questo è il momento di programmare il futuro, il tuo futuro, di scegliere dove andare. C'è quel bel futuro lì, davanti a te, che ti sta aspettando. Sorridigli, perché lo crei oggi. Cosa è più importante per te? Amore, salute, passione, fiducia, entusiasmo, allegria, felicità, crescita, spiritualità. Quali sono le cose da cui ti vuoi far guidare da oggi in poi? Respira profondamente. Inspira il cambiamento. Rilassa tutte le tensioni e tutto il corpo, lasciale andare. E adesso immaginati lì davanti, come se ti vedessi nello specchio. E concentrati sul tuo sguardo. Guarda come sei orgoglioso e soddisfatto. Perché sai che stai facendo qualcosa di speciale, perché sei speciale. Chi sei? Chi decidi di essere? Che cosa vuoi fare? Che cosa non vuoi fare più? Come ti comporti? Come ti muovi? Come ti parli? Guardati lì davanti. E nota come ti fa stare tutto questo. Allineati a quel qualcosa di più grande, a quella scintilla che ti ha fatto essere qui, in questo periodo storico e in questo luogo. Sei la persona giusta, nel momento giusto, nel posto giusto. Senti l'energia intorno a te e nella stanza, come sono diverse. Immagina che avvolgano tutte le persone che ami e ricordati che tu le puoi ricreare ogni volta che vuoi. E adesso apri le braccia davanti a te, come se tu con questa energia volessi abbracciare una persona davvero importante. E adesso dai un bel abbraccio a te stessa, perché sai di meritarlo. Vuoi prenderti cura di te stesso, dei tuoi sogni e dei tuoi progetti, delle tue azioni, dei tuoi pensieri e delle tue emozioni. Stringiti forte e di' ancora una volta grazie. Grazie alla vita, grazie al tuo cuore e grazie a te stesso. Adesso io conterò da 10 a 1, lentamente, e quando arriverò a 1 ti chiederò di riaprire gli occhi e tu ti sentirai meravigliosamente bene, rinato, pieno di energia, in armonia con la vita. Consapevole che da oggi la tua vita non sarà più la stessa e che puoi scegliere di fare la differenza. Puoi scegliere il futuro che vuoi. Esattamente da ora. Dieci. Nove. 8, 7, 6, una persona davvero speciale e puoi fare tutto ciò che vuoi. 5, ciò che desideri ha già messo radici e vuole essere curato e annaffiato, giorno dopo giorno, azione dopo azione. 4, 3, 2, Muovi pian piano i muscoli del corpo e quando sei pronto fai un bel respiro profondo e apri gli occhi. Uno. Se vuoi rimani ancora un pochino qui, puoi continuare il lavoro che abbiamo fatto insieme, continuando a immaginare il futuro che vuoi e che meriti. Io ti auguro con tutto il cuore un Natale, un felice anno nuovo di gratitudine, di amore e di pace. Ti abbraccio forte forte. A presto.